24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:30, ebbene sì, ci siamo in una Milano paralizzata, siamo riusciti ad arrivare in radio, ma i giornali no, i giornali pochi. E allora, intanto il nostro sondaggio, ma sì, parliamo del grande freddo, del nord paralizzato, parliamo di quello che è successo, vi chiediamo, secondo voi tutti questi disagi nei trasporti, li abbiamo sentiti, i disastri nei trasporti sono inevitabili, erano inevitabili, insomma ogni tanto nevica d'inverno, sapete com'è, oppure è questione di inefficienza del paese, inefficienza delle istituzioni, inefficienza delle infrastrutture, inefficienza di qualcuno, insomma esprimetevi, votate, poi ne parleremo alle 8:30, dovete votare su radio24.it o sole24ore.com. e i giornali non ci sono? No, ci sono, qualcuno ce n'è, leggiamoli. In primo piano. Anche perché devo fare un ringraziamento pubblico. Oggi i giornali, a parte il Sole 24 Ore, sapete com'è, il Sole 24 Ore ce l'abbiamo in casa e quindi ce l'abbiamo. Il Corriere sono andato a comprarlo in edicola e poi per il resto non c'era niente, ma è arrivata Santa Deborah Rosciani che mi ha portato quei pochi giornali che ha trovato nelle edicole del centro, arrivando di corsa, per cui ve lo dico, li ho letti così. 5 minuti fa, improvvisiamo, il bello della radio è anche questo. Ma qualche giornale è arrivato, oggi Milano è anche così, vi dovete accontentare. Magari voi siete a Bari, avete tutti i quotidiani davanti, ma a Milano non vi rendete conto che cos'è davvero. È già un miracolo essere riusciti ad arrivare qui in radio. Allora, il Sole 24 Ore, il nord si ferma per la neve, che è poi lo stesso titolo di apertura del Corriere della Sera. Il nord si ferma per la neve. Poi La Stampa. La Stampa mette in prima pagina un'intervista al cardinale Bagnasco, il capo dei vescovi. Prima i problemi del paese. Poi vabbè, c'è il nord sotto la neve, Milano nel caos. Poi abbiamo il quotidiano nazionale Paralisi Milano. C'è anche un'intervista esclusiva ad Alberto Stasi. Peccato, oggi i giornali regalavano anche tanto. Poi abbiamo il Fatto Quotidiano, l'inciucio continuo, Napolitano auspica il dialogo, Berlusconi e D'Alema lo fanno dal 95. I giornali che io ho sono questi. Non ho Repubblica, non ho altri giornali e quindi facciamo la rassegna stampa su questi, iniziando appunto sul gelo, il grande gelo che ha colpito un po' tutto il nord, lo stallo di un paese ghiacciato, leggo dal Sole 24 Ore, traffico impazzito soprattutto nelle città maggiori, scuole chiuse oggi per esempio a Milano e in parte della Lombardia. Ci sono ovviamente le polemiche per, li abbiamo sentiti, i pendolari, quelli che hanno preso il treno, l'aereo, molto arrabbiati. Vi invito anche, se volete, al 349-238-6666, il nostro messaggio, scriveteci, fateci sapere dove siete, come siete, anche perché ne parleremo alle 8:30. Di questa situazione ha fatto un po' discutere, certo, quello che ha detto il numero uno delle ferrovie di Trenitalia, Moretti, l'amministratore delegato Mauro Moretti. Ieri ha fatto una conferenza stampa. Intanto, scrive Laura Serafini sul Sole 24 Ore, sostanzialmente Moretti ha detto la verità è che in tutta Europa la situazione è difficile, un top manager visibilmente contrariato per la valanga di critiche che gli sono piombate addosso per i disagi. Ha detto sostanzialmente che solo il 10% dei treni sono stati bloccati, quando in Europa è stato molto peggio. Certo, questa frase, porteremo tutti a destinazione, ma chi si mette in viaggio sui treni a lunga percorrenza è meglio che si munisca di bottiglie d'acqua, panini e maglioni, ha fatto molto discutere, infuriati ovviamente i consumatori, le associazioni di categoria. Il Sole 24 Ore fa anche dei conti in Lombardia. In Lombardia c'è stato, soprattutto veramente a Milano, un'abbondante nevicata che ha paralizzato il traffico, anche perché la gente ha preso la macchina. E quindi ci sono i costi che sono già quantificati. Cristina Jucker, pagina 4 del Sole, in Lombardia costi per 170 milioni. Questo è l'impatto sulle attività economiche, perché arrivano i rifornimenti a singhiozzo, anche dei giornali, ma non solo, e arrivano ovviamente manca anche nei negozi i clienti, perché non è che ci si sposta molto facilmente. Il giorno dei pendolari in trappola, 4 ore per uscire dal centro, così è il Corriere della Sera, si parla del centro di Milano con il vice sindaco Decorato, che sarà nostro ospite alle 8:30 tra gli altri insieme al ministro Matteoli. e che dice: non sono stato ascoltato, troppa gente ha preso la macchina, ecco il disastro in atto, tutti in macchina bloccati. C'è anche un'intervista all'allora sindaco Carlo Tognoli che ricorda la nevicata del gennaio dell'85, per chi se la ricorda, io andavo a scuola, è stato un gran momento di festa, scuole chiuse per giorni e giorni. Dice Tognoli: eravate preparati, ero convinto di sì, il comune aveva investito molto, poi abbiamo scoperto che non c'erano i mezzi dell'AMSA e dovemmo chiamare i soldati, e i soldati che sono stati chiamati anche questa volta, il ministro La Russa li ha mobilitati. Guasti a bordo, vagoni gelati, è il disastro, ma per carità non diciamolo troppo forte, ma lo dicono i giornali, delle ferrovie, secondo il Corriere della Sera, Moretti, eccolo lì l'invito. Sì, certo, estrapolata e messa così fa veramente un po' colpisce. Moretti, vestitevi più pesante. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Ritardi fino a 6 ore. Nella classifica dei ritardi il record va all'Intercity Bari-Milano, arrivato in centrale quasi 5 ore dopo l'orario ufficiale. Ma Moretti che si difende: in Europa viaggiamo solo noi. Anche se questo dà modo a Massimo Gramellini, sulla prima pagina della Stampa, questo invito, che gelido trenino, questo invito di Moretti a dire vestitevi più pesante, al buongiorno, ispira al buongiorno di Massimo Gramellini. Io lo leggerei tutti i giorni, non si può, ma insomma questa è la seconda volta, lo faccio. Il freddo rende migliori. Penso a Mauro Moretti, amministratore delle Ferrovie dello Stato. La sua voce, che ancora l'altra settimana celebrava le magnifiche sorti e progressive dell'alta velocità, si è librata ieri attraverso i binari ghiacciati del paese per invitare i passeggeri a munirsi di coperte, maglioni, acqua e panini. Era questa la dimensione epica che sognavamo, il viaggio verso la casa dei padri trasformato in esperienza mistica, da Torino a Reggio Calabria, come per un pellegrinaggio a Santiago di Compostela. Si parte in un modo e si arriva in un altro, se si arriva. È una prova iniziatica, quel che conta è sopravvivere alle insidie disseminate lungo il cammino. Si comincia con la ricerca del treno, irta di trabocchetti, perché sul binario per Aosta c'è scritto Ancona. E per non passare le vacanze coi parenti sbagliati bisogna interrogare gli oracoli in divisa da capostazione. Poi scatta l'attesa, arriverà il treno e una volta arrivato ripartirà. Arriva e riparte, ma la prima galleria un orco cattivo spalma ghiaccio sui binari e fa saltare l'elettricità nei vagoni. Così si rimane fermi al buio sul gelido trenino di Moretti, che per fortuna ce lo lascia riscaldare. Coperte, maglioni, i più multistrato di noi sembrano un incrocio tra Totò a Milano e l'omino Michelin. Si riparte, ma è un'illusione come quel rumore in sottofondo, biscotti, caffè. In realtà i candidati restano soli con le proprie paure, devono attingere alle risorse più segrete del loro zaino, acqua e panini. Dipende tutto dal ripieno. Se abbastanza calorico, usciranno a rivedere le stelle, prima o poi. Questo è Massimo Gramellini. Sorridiamo anche, bisogna sempre farlo. Rimango proprio sulla Stampa, perché a pagina 2 e 3 il direttore Mario Calabresi insieme a Paolo Mastrolilli intervistano il Cardinal Bagnasco, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Non potremo mai tacere. La Chiesa non è una lobby, la fede ha ricadute pubbliche e sociali. Tra l'altro proprio dicono Calabrese e Mastrolilli, il Cardinal Bagnasco è appena uscito dall'incontro con Benedetto XVI per lo scambio degli auguri. Ieri il Papa ha anche detto la Chiesa non faccia politica, ma Bagnasco fa una lunga conversazione di 2 pagine che riassume in alcune risposte. Innanzitutto dice: rinnovare la vicinanza sincera al Presidente del Consiglio per l'atto di violenza di cui è stato oggetto, in modo imprevedibile quanto gratuito. E ancora: le parole sono migliori di prima riguardo al dialogo, alle riforme. Se diamo credito e pensiamo che abbiano un significato, allora un buon segno. Speriamo che questa volta le buone intenzioni seguano davvero i fatti. Torna anche sulla vicenda Boffo, attaccato dal Giornale, ricordate, quando sulla sua presunta omosessualità. Poi Vittorio Feltri dal Giornale insomma in qualche modo ha chiesto scusa, ha detto ma no, lui non aveva fatto niente. Intanto però si era dimesso nel frattempo, Boffo, travolto da questo finto scandalo, si deve dire. Si è trattato senza dubbio di scuse tardive, dice il Cardinal Bagnasco, quelle di Feltri, ma sono state la conferma di quanto già si sapeva del dottor Boffo, che è persona integra e professionista di grande valore. A lui va la stima e la riconoscenza di tutti per la passione e l'intelligenza con cui ha lavorato. Poi Il cardinale Bagnasco tocca vari temi, per esempio quello della pillola abortiva, la RU486, entrata in commercio anche in Italia. Ciò che è in discussione è l'applicazione della legge 194, quella cioè che regola l'interruzione di gravidanza. Quel che veniva sbandierato come un diritto oggi viene inteso più come un dramma e comunque una sconfitta, dice Bagnasco. La RU486 da parte sua contribuisce ulteriormente a banalizzare il grave male dell'aborto, oltre a porre serie domande alla salute della donna, la confina in una sorta di isolamento psicologico e morale, lasciandola da sola a dover decidere con una via di fuga all'apparenza facile e innocente. Poi parla anche delle polemiche su Papa Pio XII, il cui iter di beatificazione è stato accelerato dal Papa, suscitando proteste nella comunità ebraica per i suoi presunti silenzi durante la Shoah. L'iter previsto va avanti secondo procedure che sono molto rigorose, dice il cardinale Bagnasco. Quindi lasciamo che il lavoro degli esperti e delle persone responsabili proceda serenamente. Insomma, tanti temi toccati in questa interessante lunga chiacchierata del cardinale Bagnasco con il direttore della Stampa Mario Calabresi e Paolo Mastrolilli. Introduce un po' al tema della politica che troviamo trattato sempre sul tema del dialogo, le riforme, insomma è il momento in cui i pontieri puntano al dialogo, quelli che non sono pontieri ma che non vogliono il dialogo sono i cosiddetti falchi, dicono niente dialogo. La Russa, intervistato dal Corriere della Sera, intese solo in Parlamento, ma il PD ha troppe voci diverse. Dice il ministro: il problema non è lo strumento, perché le riforme fatte nel dopoguerra non hanno mai visto la luce in una commissione speciale. È auspicabile certo la bozza violante, cioè ridurre il numero dei parlamentari, fine del bicameralismo perfetto, senato federale, maggiori poteri al capo del governo, al presidente, poi riformare la giustizia. Insomma, se ne parla da anni. Enrico Letta, sempre sul Corriere, PD: prendiamoci un semestre di tempo per fare le riforme, chi è consapevole della propria identità si confronta senza aver paura, le polemiche su D'Alema e l'inciucio è tutta panna montata, per noi l'accordo si può fare. Eccoci qui. Sulla Stampa, il Cavaliere, è un retroscena questo di Amedeo La Mattina, gli scenari del centrodestra: sono loro che sono in difficoltà, noi dobbiamo parlare il linguaggio dell'amore, del dialogo, sono gli altri a essere in difficoltà. Questo è un virgolettato attribuito a Berlusconi, che direbbe, insomma, se Bersani e D'Alema non sono in grado di isolare Di Pietro, il fallimento sarà colpa loro, noi stiamo tranquilli. Ed eccoli qui i falchi. Stracquadagno, onorevole del PDL, spesso anche stato nostro ospite: il dialogo è tutta aria fritta. E allora, questo mi permette di saltare ai due giornali, Libero e Il Fatto, che trattano in maniera frontale questo tema dell'inciucio. Rovinati dall'inciucio, dice Maurizio Belpietro nel suo editoriale, dove peraltro dice, insomma, secondo noi buoni motivi ci sono e spingono a favore del compromesso, come lo ha definito D'Alema. Anche un cieco capirebbe che gli uomini votati all'anti-Berlusconi rifiutano di vedere, cioè capirebbe ciò che gli uomini votati all'anti-berlusconismo si rifiutano di vedere. Senza una pace non c'è alcuna possibilità di riavviare il sistema e non si va da nessuna parte. Dall'altra parte Il Fatto invece è molto critico: l'inciucio continuo. Questo è il titolo d'apertura del giornale di Antonio Padellaro e Marco Travaglio. Napolitano auspica il dialogo, Berlusconi e D'Alema lo fanno dal 95. C'è un articolo molto ampio a pagina 2 di Peter Gomez e Marco Travaglio, per l'appunto. L'inciucio colpisce ancora. Sono riassunti 15 anni di passione, tradimenti tra Berlusconi, D'Alema e gli altri, i condoni TV, il manganello delle urne, gli attacchi ai PM, la bicamerale fatta saltare, l'eterno conflitto di interessi, i boom dei fatturati Mediaset, insomma una storia degli ultimi 15 anni del dialogo, non dialogo, dell'inciucio, non inciucio sul Fatto. E allora, sono le 7.45, siamo arrivati al traffico. Ricordo appunto che il traffico, ascoltatelo molto bene, ricordo che parleremo anche noi del freddo e maltempo nel nostro sondaggio che dovete votare, cioè se tutti questi disagi dei trasporti sono secondo voi legati alla nevicata, insomma, al tempo, oppure se c'è un'efficienza di base da parte del sistema paese, delle infrastrutture, di chi deve mettere comunque in condizione di viaggiare. Per ora il 75% prevede questa seconda possibilità. In primo piano. Allora, ringrazio tanto chi mi manda i messaggi, dice: sto arrivando a Milano da Vigevano, che sta un po' fuori, insomma, dalle parti di Pavia, una trentina di chilometri, e dice: se non avete pneumatici da neve non mettetevi in strada. Grazie Paolo, la radio anche questo, radio di servizio, giro il suo invito a chi si sta avvicinando a Milano. Non nevica, anzi mi giro, guardo fuori, non nevica, confermo, a Milano, però la situazione è grama dal punto di vista meteo. Andiamo al Sole 24 Ore, perché oggi c'è un Consiglio dei Ministri molto interessante, perché si decide qualcosa sul nucleare, tanto dibattuto. Che cosa si dovrebbe decidere? Il decreto sui nuovi siti. Non è che ci saranno i nomi dei nuovi siti, però ci saranno delle cose importanti. Sono circolate ieri, leggo dal Sole 24 Ore, Carmine Fotina, a pagina 7, che cosa si prevede per i comuni dove ci saranno le centrali? Un mix di contributi una tantum, sconti in bolletta per i cittadini, opere di urbanizzazione. Questo prevede il piano del governo per i comuni che ospiteranno i siti delle centrali nucleari. A conti fatti ci sarebbe un contributo di 30 milioni di euro per ogni reattore della centrale, spalmati in 5 anni, di cui il 60% a favore di cittadini e imprese locali, il restante 40% al comune ospitante e in proporzioni decrescenti ai comuni attigui per fare le opere infrastrutturali. La riduzione in bolletta invece per imprese e cittadini ammonterebbe, quelli che hanno la centrale nucleare in zona, ammonterebbe a circa 0,3 euro per megawattora prodotto in fase di esercizio per la durata in vita dell'impianto, circa 60 anni. Cifre che dovrebbero essere confermate oggi dal Consiglio dei Ministri. Bisognerà ovviamente verificare la reazione delle località che hanno caratteristiche idonee per ospitare centrali. È chiaro che le indiscrezioni puntano su quelle dove già le centrali c'erano: Montalto di Castro, Garigliano in Campania, Trino Vercellese, Caorso. Il Corriere della Sera aveva detto, e oggi ribadisce, credo, nel Polesine, dalle parti di Chioggia, ma anche Montalto di Castro e Caorso, ripete Roberto Bagnoli. Insomma, sul Sole trovate tutto quello che oggi dovrebbe decidere il Consiglio dei Ministri riguarda il nucleare. Dunque, un reattore nucleare per i comuni che lo ospiteranno varrà 30 milioni di euro, così possiamo dire. Si parla di cifre più irrisorie, ma che hanno fatto arrabbiare, sempre dal Sole 24 Ore, quelle dell'aumento del canone della RAI, che passerà dall'anno prossimo a 109 euro da 107,5 euro, un aumento di 1,5 euro, non tanto in un anno, però questo porterà la RAI 24 milioni di euro in più. È stato stabilito in base all'indice di inflazione rilevato dall'Istat, dunque un adeguamento all'inflazione, ma secondo l'autorità di comunicazione no, e si è dichiarata nettamente contraria, assolutamente da evitare soprattutto a fine 2009. Anno che ha visto il passaggio al digitale di diverse aree, tra cui Roma, con notevole difficoltà per i cittadini, quindi c'è un po' anche una beffa, secondo la GCOM. E i consumatori arrabbiati dicono: è un premio alla faziosità elargito dal governo a un servizio pubblico che dovrebbe arrossire a ogni edizione del TG per le frottole raccontate in prevalenza sulla situazione economica del paese. Questo è l'Adusbe, fu un commento pacato. Comunque, insomma, c'è rabbia per questo canone che aumenta. Vado al Quotidiano Nazionale, uno degli altri pochi giornali che Santa Deborah Rosciani mi ha portato. E a chi mi dice: ma leggiteli su internet. Ma su internet si leggono le prime pagine, mica me li posso comprare, ho fatto il giro di due edicole. Guardate se devo rispondere anche a questo. Va bene. Alberto Stasi parla, lo fa dopo aver parlato a Libero, parla al Quotidiano Nazionale, un'intervista che viene definita esclusiva, in realtà Libero l'ha già intervistato un paio di giorni fa, ma insomma Gabriele Moroni intervista Alberto Stasi. Sta tornando alla normalità? Piano piano, ma è un processo lento. Certo, dice, non è una vittoria, non è che ho vinto al Super Enalotto, è solo un riconoscimento di quello che ho sempre detto. Non ho mai pensato di non farcela, certo ho avuto momenti di difficoltà. Sapete, Alberto Stasi è quello che è stato assolto per l'uccisione della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco. Certo, sono finito anche sulle riviste, vicino a Coco, a Manuel Arcuri. i giornalisti ancora mi pedinano, questo mi dà un po' fastidio. Qualcuno in Buenos Aires, in centro a Milano, mi ha gridato Forza Alberto. Ma insomma, lui dice, fa delle precisazioni, per esempio: Alberto dagli occhi di ghiaccio, ho gli occhi verdi e non azzurri e non sono di ghiaccio. La madre di Chiara continua a ritenerla colpevole. La mamma di Chiara ha detto che ho dato a sua figlia gli anni più belli della sua vita. Credo non l'abbia dimenticato. Chiara oggi è un ricordo continuo, dice Alberto Stasi. Quasi tutte le cose che faccio, che dico, me la ricordano. La pizzeria dove si andava, il mare, la gelateria, le cose più piccole sono quelle di più, che più si collegano al ricordo di una persona. Non teme di rimanere per chissà quanto il biondino di Garlasco? Il biondino, il bocconiano, i giornali mi chiamavano così per non ripetere sempre Alberto Stasi. Non mi sento addosso un peso da trascinare per gli anni che verranno. Chi è oggi Alberto Stasi sono sempre io, sempre me stesso, con alle spalle un'esperienza che nessuno vorrebbe vivere e che rimarrà per sempre. Cosa l'ha lasciato tutto questo? Non si può descrivere. E infine, ha davanti l'assassino di Chiara. Cosa vorrebbe dirgli? Gli chiederei perché. Così chiude Alberto Stasi, mentre io voglio capire dal nostro Peter quanto tempo ho per chiudere, se c'è ancora tempo per una segnalazione. Sì, c'è ancora ben tempo. Allora voglio tornare sulla stampa. Ricordate tutti quello che è successo a Viareggio, il disastro ferroviario il 29 giugno di quest'anno, 31 persone uccise. Oggi, se si può dire così, dopo quella tragedia, è un giorno così un pochino felice. Lo racconta molto bene Ferruccio Sansa su La Stampa, appunto. L'ultimo sopravvissuto all'inferno di Viareggio. Voglio soltanto stare con mio figlio. Da oggi gli dedicherò ogni minuto, ogni secondo. Non ci lasceremo mai soli. È tornato ieri a casa, dopo tantissimi giorni di ospedale, Marco Piagentini. È tornato in un condominio a due piani a Viareggio. Fuori dalle finestre si prepara al Natale, scrive Ferruccio Sansa. Le insegne lampeggiano sull'asfalto bagnato. L'Italia guarda alle feste e non pensa più a quel 29 giugno. Ma domenica pomeriggio è tornato a casa Marco Piagentini, 41 anni. Uno degli ultimi feriti ancora ricoverati. Tre persone passeranno ancora le feste in ospedale, pensate. Pochi ricorderanno, Marco però è l'uomo che aveva raccolto intorno a sé i pensieri degli italiani. Tutti avevano seguito la sorte della sua famiglia. Prima la morte di Luca, 5 anni, poi di Lorenzo, 2 anni, finché anche Stefania, 40 anni, cedette alle ustioni. Domenica un'auto si è fermata davanti alla casa e Marco è sceso, ha respirato profondamente. L'ultima volta che aveva visto Viareggio era un altro uomo. In queste strade vivevano i suoi 3 figli, la moglie. Ebbene, questo è il ritorno a casa di Marco Piagentini. Gli è rimasto un figlio, Leonardo. Del mio mondo non resta che Leonardo, ha sospirato all'orecchio del cognato Stefano Doveri. Forse Marco si è chiesto se la sua guarigione, che tutti a Viareggio chiamano miracolo, non sia piuttosto una condanna, ma la porta di casa si è aperta e Leonardo, il figlio maggiore, gli è corso incontro e Marco ha capito di non avere alternative, deve e vuole a tutti i costi vivere. Insomma, questa, ripeto, è un tragica, ma la storia in qualche modo si può riniziare anche da qui, di Marco Piagentini tornato a casa in condominio, nel suo condominio di Viareggio, dopo la tragedia dello scorso 29 giugno. Eccoci qua, le 8:18 minuti, siamo al caldo, siamo al calduccio dei nostri studi, noi che ci siamo arrivati, voi andate con molta, molta, molta, ma molta prudenza, se siete in macchina ai voi, e insomma fa freddo, noi parliamo di economia maltempo. Soldi e dintorni. Dopo quello che è successo oggi non potrò più insultare Deborah Amici Rosciani. Per sempre. Ho creato Rosciani un legame di sangue. Mi ha salvato la rassegna stampa quando avevo solo il Sole, perché ce lo facciamo qui, insomma. E il Corriere, perché all'edicola era arrivato. È arrivata Deborah Rosciani 5 minuti prima di andare in onda, ma sì, esatto. Lanciandosi. Ma perché ti è andata bene che mi hai fatto sapere questa cosa? Certo, che ero... mi ha comprato dei giornali, lei che passa dal edicola Duomo. Edicola di Piazza, sapete, Duomo. Dal Duomo. No, non dire così. Ed è arrivata con i giornali. infatti fresco. Reso conto del mio viaggio per arrivare qua. Casualmente sono passato in Duomo perché ho preso la metropolitana. A Milano e dintorni, ma nel nord-est è un disastro. Nord. No, pare che si stia rimettendo in pista la città, Milano. Pare che anche l'esercito sia già al lavoro per sgombrare le strade. Almeno me lo stava dicendo poco fa Maria Luisa Pezzali, stava leggendo le agenzie. Io ho visto alle 6:30 quando sono partita di casa una città che ancora sonnecchiava parecchio, molta neve accumulata ai bordi della strada, naturalmente, insomma, per toglierla tutta qualche giorno ci vorrà. Il problema grosso sono state le auto in circolazione, come ha anche detto il vice sindaco di Milano Decorato, molto arrabbiato su questo, perché lui giustamente dice a chi critica tutta l'emergenza che si è determinata in queste ore nella città appunto milanese, a Milano, e tra l'altro Decorato sarà proprio in diretta tra poco con Alessandro Milan. Lui dice giustamente: noi domenica avevamo avvisato e avevamo invitato molto calorosamente tutti quanti a non uscire con la macchina, a non prendere la macchina lunedì, e infatti tutti coloro che poi l'hanno presa ieri pomeriggio sono rimasti bloccati a lungo in città. Più sul pezzo di così non potevamo esserci. Ieri caos, neve per le strade, oggi le difficoltà rimangono, e noi questa mattina parliamo delle gomme per l'inverno. Forse era meglio raccontare prima i consigli per mettersi in viaggio in massima sicurezza in caso di neve, però io, come sapete, essendo una donna, faccio fatica ad essere previdente su questi argomenti, e però insomma meglio tardi che mai, parliamone questa mattina. Molti di voi ieri probabilmente erano muniti delle gomme necessarie, perché il cambio di gomme stagionale è più che un obbligo, una scelta di buon senso. Allora buongiorno a Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, gruppo produttori pneumatici, benvenuto. Buongiorno a tutti. Ritorna con noi già nostro ospite a Salvadanaio, soprattutto lo abbiamo invitato in un altro momento dell'anno, quando era caldo, dottor Bertolotti se lo ricorda, e quindi stavamo dando altre indicazioni di buon senso ai nostri automobilisti che si preparavano a mettersi in viaggio per le vacanze estive. Qua situazione molto diversa, lei che idea si è fatto di quello che è successo in queste ore? Ma innanzitutto nella precedente intervista avevamo proprio detto che il periodo era certamente quello estivo, ma era quello proprio in cui pensare ad entrare nell'ordine di idee di avere un paio di scarpe adeguato anche per la stagione invernale, che evidentemente era molto lontana. Quindi certamente occorre agire per tempo. Poi quando si è in una situazione di criticità come quella che è accaduta in queste ultime ore, e poi diventa veramente complicato sia andare dal gommista, perché chiaramente si creano delle code particolari, sia da parte della viabilità. Ieri io pure ero a Milano, quindi vivo a Milano, giravo per Milano con una vettura, la mia vettura non aveva alcun problema, ma certamente ho visto situazioni imbarazzanti, gente non solo con gomme estive ma anche con gomme estive completamente lisce, quindi chiaramente questo rappresenta un problema. Dei veri pericoli pubblici, insomma, poi al di là per la sicurezza personale, per la sicurezza di tutti gli altri. Allora, i pneumatici stagionali invernali, che caratteristiche hanno e secondo lei quando vanno messi, ovviamente non a ridosso della nevicata possibilmente, anche perché magari poi c'è qualche gommista che se ne approfitta, perché questo va ricordato, e ci darà anche qualche indicazione su come trattare su questo, dottor Bertolotti, ma soprattutto qual è il momento giusto per fare il cambio gomme? Allora, l'acquisto magari va pensato a maggio, giugno dell'anno, poi vanno montate sicuramente nel tardo, dipende poi dal periodo, dalla regione in cui uno si trova, ma indicativamente quando le temperature scendono mediamente sotto i 7 gradi, a seconda della regione, può essere la fine di ottobre, i primi di novembre, al massimo entro la fine di novembre. In questo modo si ha la possibilità di circolare senza dover montare le catene in caso di nevicata, ma soprattutto in migliore sicurezza. Pensate semplicemente ad uno spazio di frenata che su fondo, in assenza totale di neve, ma fondo diciamo bagnato piuttosto che freddo, la differenza tra un pneumatico invernale e un pneumatico estivo è del meno 20% di spazio di frenata. Abbiamo visto per esempio in circuito che a 80 km all'ora una Maserati, ma poteva essere qualsiasi altra vettura, si fermava a 30 metri con un estivo e a 24 con un invernale. 6 metri di differenza vogliono dire incidente sì, tamponamento no. Poi chiaramente quando c'è la neve non c'è la necessità di scendere, montare le catene, che molto spesso non è così facile. Quindi rappresentano addirittura l'alternativa alla catena? È la soluzione per tutto il periodo invernale in assoluto, senza dover, quindi quando fa freddo migliorano le prestazioni, garantiscono poi la mobilità totale quando nevica non c'è la necessità di montare le catene. Questo ovviamente nelle situazioni di normalità di una città, di un'autostrada, di una superstrada e quant'altro. In condizioni di estrema criticità, cioè neve fresca ma molto abbondante, piuttosto che fortissime pendenze, allora in quella situazione estrema è necessario montare le catene e a volte non è neanche necessario, cioè non serve nemmeno quello perché non si riesce a circolare, ecco. Ma in una situazione di quel tipo io onestamente consiglio di stare a casa, come ha fatto correttamente il sindaco De Corato. E infatti il vice sindaco, che peraltro è stato anche ampiamente inascoltato, purtroppo è poi molto facile prendersi con una gestione dell'amministrazione non funzionante, ma insomma io credo che date anche le dimensioni di questa città, tutto quello che poteva essere fatto è stato fatto. L'ho anche detto che stamattina i mezzi di superficie non andavano perfettamente alle 6:30, ma già vedo molto più movimento in città e soprattutto è arrivato l'esercito. Pian piano sgombreremo anche tutti i nostri ambienti dalla neve. Però, allora, tornando alle catene, non alla catena, alle gomme termiche, sono le gomme termiche, no? Gli pneumatici stagionali invernali, allora, dottora Bertolotti, sono diversi. I pneumatici invernali è il sono modo corretto di chiamarli, poi qualcuno li chiama pneumatici termici, qualcuno li chiama da neve. E questo è il codice della strada con una vecchia dicitura che risale a più di 20 anni fa, qualcuno addirittura questa mattina ho sentito li chiama antineve, come se respingessero la neve, in realtà la sciolgono al loro passaggio, sciolgono la neve, non sono termici, quindi non è che scaldano la neve, a questo punto la fanno sciogliere. Queste sono evidentemente dei modi di dire un pochettino poco tecnici, però direi molto, molto semplicemente sono dei pneumatici che vanno chiamati invernali perché proprio sono la soluzione migliore per tutto il periodo stagionale, quando fa freddo, quando fa freddo. È inverno. Quanto costano, dottor Bertolotti? Andiamo al sodo del tema che ci interessa. Ecco, ma vanno bene, nel senso che è un prezzo standard per ogni tipo di auto, oppure ovviamente ogni auto ha la sua gomma quindi il prezzo cambia in relazione a questo? No, certamente allora seguono la logica del pneumatico e quindi della vettura, per cui un pneumatico, il confronto corretto va fatto tra un pneumatico estivo e un pneumatico invernale con la stessa marca, lo stesso tipo, lo stesso livello di gamma. A quel punto, se si confrontano veramente pere con pere, cioè estivo di un certo marchio con invernale di un certo marchio, i prezzi sono assolutamente identici, o al massimo la variazione può essere nell'ordine di un 5%, quindi prezzi identici. Ciascuno faccia un minimo di riflessione, è normale, è logico che quando una vettura ha montati i pneumatici invernali, è chiaro che non ha montati i pneumatici estivi, quindi non si consumano, possono essere lasciati tranquillamente da un gommista, da un rivenditore specialista di gomme, quindi non creano nemmeno più un fastidio a costi assolutamente limitatissimi, stiamo parlando per tenerli un anno cifre di 15-20 euro, quindi stiamo parlando di costi banali, e quindi non rappresentano un maggiore costo, ma al massimo un'anticipazione di un costo, perché poi si prolunga l'altro treno di gomme e quindi in buona sostanza si riesce a circolare in totale sicurezza e soprattutto si garantisce una mobilità per tutti. Tenete conto per esempio che quest'anno sono state numerose le province che hanno introdotto proprio l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo. E quindi informiamoci anche in relazione alla zona dove abitiamo. Dottor Bertolotti, so che voleva concludere, purtroppo devo lasciarla perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, però insomma credo che le regole di buonsenso le abbiamo date, no? Anche in relazione al cambiamento delle gomme della nostra auto, alla luce anche di situazioni straordinarie come quelle che si possono manifestare, abbiamo visto quello che è successo in questi giorni. La ringrazio, buona giornata. Grazie anche a voi. E buon viaggio. Alessandro, sì, continuiamo su questo filone. Eccoci stamattina. Qua. Continuiamo su questo filone. Tu alle 12? Alle 12 ritorno sui miei temi di risparmio. Presento un libro. Io ci provo il vademecum verde dell'investitore consapevole e non dell'automobilista un po' scapestrato. Quello che prende l'auto con la neve. Stai zitta perché ci arrivano messaggi, ti ascoltano, gente infuriata, perché? Gente che è chiusa in autostrada tra Reggio e Modena. No, ma perché io ho detto che la situazione a Milano tenta di tornare alla normalità, ma le altre zone ovviamente non le conosco e so che c'è gente che ha dormito in aeroporto alla No, ma parliamo di domani che dovrei anche partire nel pomeriggio con l'auto. Mi sa che rimaniamo qua in io bocca e te. Al lupo, in bocca al lupo, io sto qua, non parto. Le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, le notizie in primo piano, tralasciamo il maltempo di cui ci occuperemo tra poco. La politica, ancora un appello del presidente Napolitano per il dialogo. Non c'è ancora il clima propizio, ha detto il capo dello Stato, ma ci sono le premesse per crearlo e imboccare la strada maestra della larga condivisione per realizzare le riforme. Intanto oggi è previsto il via libera definitivo del Parlamento alla finanziaria, in bilico la possibilità che il governo chieda la fiducia. La manovra lorda nel 2010 vale oltre 11,1 miliardi di euro. E infine aumenta il canone RAI di 1,50 euro, passa da 107,50 a 109 euro all'anno. Un adeguamento in base all'inflazione, fa sapere il viceministro Romani, ma l'aumento è bocciato dall'autorità delle comunicazioni e dalle associazioni dei consumatori. E allora sono le 8:33 minuti, quello che ci chiediamo è che cosa sta succedendo in parte dell'Italia, soprattutto al nord, legato al maltempo, legato a qualcos'altro, insomma un nord paralizzato per i trasporti. Nel nostro sondaggio di oggi. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in vita. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. I disagi, i trasporti, le città paralizzate, alcune come Milano, quella da cui trasmettiamo a fatica, siamo riusciti ad arrivare in radio ma ce l'abbiamo fatta, voli fermi, alcuni aeroporti fermi fino alle 13 per esempio a Malpensa. Orio al Serio anche ferma, alcuni hanno anche dormito all'Addiaccio. Insomma, ci chiediamo e lo vogliamo chiedere intanto al ministro, che saluto, il ministro Altero Matteoli, buongiorno. Buongiorno ministro, a voi. Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Senta ministro, noi abbiamo voluto fare questa domanda, ma insomma questi trasporti in difficoltà sono legati a questa nevicata imprevedibile, al maltempo, oppure ci sono anche delle inefficienze, inefficienze della struttura, inefficienze a reagire, magari inefficienze anche nostre che prendiamo la macchina comunque, insomma era tutto prevedibile, era tutto scontato per questa abbondante nevicata? Ma guardi, prima di tutto bisogna fare una considerazione che il fatto è veramente emergenziale, nel senso che la nevicata è di proporzioni gigantesche e ha paralizzato una parte del nord, però voglio dire che non è solo l'Italia, è tutta l'Europa che è in queste condizioni, addirittura in alcuni paesi anche peggio di noi, ma non voglio dire mal comune mezzo gaudio. Il problema è questo, noi paghiamo sicuramente un ritardo infrastrutturale molto forte, su questo non ci sono dubbi, però fino a ieri soprattutto le autostrade hanno retto molto bene, i mezzi di soccorso, i mezzi per spalare la neve, sono stati tantissimi che hanno cercato di attutire i disagi. Per quanto concerne le ferrovie, anche per certi meccanismi tecnici che ci sono, le ferrovie sono quelle che hanno sofferto più di tutti, ma mi sono chiesto e ci siamo chiesti insieme all'amministratore delegato Moretti, blocchiamo le ferrovie o seppur con ritardo lasciamo circolare i treni? Abbiamo preferito questa seconda perché i treni, seppur in ritardo, anche con grave ritardo, ma partono. Voglio fare un esempio: il treno che parte da Milano per andare a Lecce, sì, e parte da Milano per il tempo che è quello che è, con un'ora e mezzo di ritardo, arriva a Lecce con un'ora e mezzo, ma e poi riparte per Milano e accumula un'altra ora e mezzo di ritardo. Quando arriva la sera i ritardi sono di ore. Ma lei dice, ministro, vale. c'è stata l'ipotesi anche di bloccare le ferrovie, cioè è stata concretamente sul tavolo di fermare, sì, tutto? Come avvenne circa 20-23 anni fa. Noi abbiamo scartato questa ipotesi e abbiamo preferito far circolare i treni, seppur con grave ritardo e con grave disagio. Per quanto riguarda gli aeroporti, per esempio Fiumicino e Linate sono attivi, sì, ma il fatto che un aereo che parte da Fiumicino per andare in Belgio, tanto per fare un esempio, il Belgio ha tenuto chiuso per due giorni gli aeroporti, quindi l'aereo è rimasto fermo a Fiumicino. Io ho fatto anche qualche giro di telefonata ieri con colleghi ministri dei trasporti europei sono sì. tutti in una condizione questo di, sì. di grave disagio. Allora ministro, io le voglio far ascoltare, lei ha parlato giustamente delle ferrovie, siccome per carità ha fatto una conferenza stampa molto ampia, noi ne abbiamo dato reso conto, l'amministratore delegato Mauro Moretti, uno sempre molto pragmatico, anche un po' arrabbiato, ha detto insomma non, noi viaggiamo in Europa, no, noi viaggiamo, ci sono stati 10% di blocchi, ma insomma viaggiamo anche se in ritardo. Ha detto una frase che poi guardi troverà commentata oggi su tutti i giornali, un passaggio che vorrei fare commentare anche a lei. Sentiamo Mauro Moretti. È inutile che diciamo non muovetevi perché la gente sotto le feste vuole andare. L'impegno nostro è di passare la notte e il giorno qua, comprese le feste, dal primo all'ultimo ferroviere. Chiediamo solo, soprattutto per i treni a lunghissima percorrenza, gli intercity e gli espressi, che peraltro hanno ritardi anche che vengono anche dall'Europa, di, se uno va a fare il viaggio, di portarsi qualche bottiglia d'acqua, qualche panino e un maglione un po' più pesante. Perché capita quando non c'è l'alimentazione in elettrica che purtroppo le carrozze non hanno il riscaldamento. Non è che abbiamo altre possibilità. Allora, ministro, questa frase, io capisco il contesto di tutto, ma dire chi fa viaggi lunghi si porti acqua, panini e maglioni pesanti, perché questo può succedere. Voglio dire, che segnale dà, ministro, a un viaggiatore? È una frase sbagliata, ma bisogna... Non voglio fare l'avvocato difensore perché Moretti si sa difendere molto bene da solo, però voglio dire, è un uomo sotto stress da giorni per questa situazione e lo siamo un po' tutti perché insomma, dalla mattina alla sera, per quanto mi riguarda, ma non faccio altro che il mio dovere, ma sono in contatto con ANAS, sono in contatto con le autostrade, sono in contatto con le ferrovie, con gli aeroporti, cerco di capire, cerco... E naturalmente... Può darsi che questo stress abbia portato Moretti a dire questa frase che francamente non mi pare appropriata stante... Cioè non è un bel segnale, situazione. Poi io capisco, dice può succedere di rimanere, cade l'elettricità, sì, non c'è il riscaldamento. Il viaggiatore se lo vuole lo fa da solo che si premura, ma che chi gestisce lo inviti a portarsi panini e coperte certamente non è un bel segnale, su questo sono perfettamente d'accordo, ma... Penso di poter giustificare per quello che ho detto la dichiarazione di Moretti. Senta, un'ultima battuta, poi visto che ci sta ascoltando magari gli farò fare una battuta, una domanda anche a Paolo Martinello che saluto, presidente di Altro Consumo. Martinello, buongiorno. Vabbè. Perché poi continuerò con lui. La questione dei rimborsi, che magari per Martinello sarà anche interessante, non ci saranno rimborsi, ha detto Moretti, perché la neve è la neve. Lei ministro è d'accordo? Non ci devono essere rimborsi? Non si tratta di essere d'accordo o meno, esiste un regolamento che in vigore, a quel regolamento bisogna attenersi. Quando si tratta di calamità come questa, naturalmente non è previsto. Questo è il regolamento che ci sono. Poi su queste cose si può anche trovare un modo di derogare, vedremo, però questo Moretti ha risposto secondo il regolamento vigente. Questo è, insomma, Martinello vuole magari su questo e magari fare una domanda al ministro. Non so se questo è l'aspetto che più fa arrabbiare voi consumatori come Altro Consumo o no. Beh, i consumatori sono sicuramente arrabbiati ed è comprensibile che lo siano in questo momento chi ha deciso di mettersi in viaggio. Io voglio dire subito che in linea generale condivido la decisione del ministro e di Moretti di cercare nei limiti del possibile di far funzionare il servizio. La frase di Moretti è sicuramente infelice e dimostra peraltro un po' lo stato di un po' di approssimazione che c'è nelle ferrovie dello Stato, al di là di questo momento critico, voglio dire sistemi di assistenza dei consumatori in caso di disagi dovrebbero essere, credo, predisposti dalla società, qui siamo a che fare con una, è giusto avvertire, anzi il nuovo regolamento prevede un obbligo di informazione molto più esteso, però qui insomma siamo un po' al cavatevela voi e cercate. Vabbè, insomma, di questa è la frase un po' strapolata. Sui rimborsi, se posso dire anche al ministro, guardi, qua sulla questione dei rimborsi la questione è molto complessa. Io premetto che a mio parere Moretti avrebbe dovuto magari aggiungere a quella frase anche il fatto che magari in questi giorni, in queste situazioni, i treni potevano viaggiare senza l'applicazione dei supplementi, così non si poneva nemmeno il problema dei rimborsi, perché lei capisce che all'indomani di forti aumenti, soprattutto sui treni a lunga percorrenza, che si chieda l'intero biglietto sapendo in partenza che il treno parte con un'ora, due ore di ritardo e arriverà anche con magari tre o quattro ore di ritardo, chiedere l'intero biglietto mi sembra un una scelta sbagliata dal punto di vista commerciale, prima ancora che legale. Dal punto di vista legale, il regolamento nuovo ha peggiorato la situazione. Io questo lo voglio dire al Ministro, e credo che su questo Ferrovie Trenitalia abbia fatto una scelta sbagliata, perché il regolamento comunitario, che prevede i nuovi tipi di rimborso dopo 60 minuti anziché dopo 25-30, che lo riduce al 25% anziché al 30%, sì, che lo esclude in caso di mancato funzionamento del riscaldamento, è un regolamento minimo a cui devono adeguarsi tutti i paesi europei. Che è un regolamento, Moretti dice, ho dovuto firmare, o meglio, ma non è vero. Oppure il concetto è questo, Ministro, nel salutare e ringraziare perché lo dobbiamo rilevare, oppure ha voluto firmare, cioè si poteva non firmare. No, ma il regolamento l'ha imposto l'Unione Europea, ma è un regolamento minimale. Sì, su questo, Ministro, che così... L'Europa non si può prendere a pezzi, l'Europa ci siamo... Quindi bisogna adeguare. Ma certo, Ministro, ma guardi che questo è un regolamento che doveva migliorare, non peggiorare la situazione. Con qualche meccanismo di buonsenso questo ritengo anche possibile, ma il regolamento è dettato dall'Europa. Ministro, visto che la saluto, la libero come promesso, ma non posso farle questa domanda, se no non faccio il mio lavoro. Domani si apre ufficialmente il ponte sullo stretto, non ho capito bene con che, ma adesso ce lo spiega, con che tipo di intervento. Capisce che molti dicono, ma guardate, siamo paralizzati e facciamo il ponte sullo stretto, siamo fermi e andiamo a fare il ponte sullo stretto. Ministro, che dicono questo sbagliano, perché i soldi che spende lo Stato per realizzare il ponte sono soldi che era necessario spendere a prescindere dal ponte. I lavori che inizieranno ora, lo spostamento di una linea ferroviaria, di una stazione, i lavori che andremo a fare dalla parte della provincia di Messina, sono lavori, qualche tecnico ha detto che se c'erano stati fatti prima molto probabilmente si sarebbe attutito anche l'alluvione, i danni dall'alluvione che c'è stata poche settimane fa. Ma andavano spesi lì per forza, cioè lei dice andavano spesi. Quello che voglio dire è che il ponte sullo stretto non si fa con soldi dello Stato, il ponte lo si fa col mercato, quindi non è che si possono prendere questi soldi e fare altre cose. Che investiranno per realizzare il ponte investono per realizzare il ponte. Questi lavori che stiamo facendo e che partiranno domani sono lavori propedeutici sicuramente alla costruzione del ponte, ma indispensabili per mettere in sicurezza una parte del territorio, sia in Calabria che in Sicilia. Allora, io mi fermo qui con lei, la ringrazio, Ministro, per essere stato con noi. Altero Matteoli, Ministro Infrastrutture e Trasporti. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, il caos nei trasporti, colpa del maltempo, di un paese inefficiente secondo voi? Questo è il nostro sondaggio e bisogna dire che il 72% per ora dice colpa del paese, insomma delle inefficienze. Vediamo se Paolo da Bergamo che ne pensa. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei ha preso la macchina? Sì, ieri purtroppo ho preso la macchina e sono stato bloccato, come tutti, fermo nel traffico. Ecco, e che dice? Non do la colpa all'inefficienza del paese, ma purtroppo solo ed esclusivamente agli automobilisti. È vero, l'ho presa anch'io, devo fare una confessione. Io vengo alle 5:30 del mattino, l'ho presa anche oggi, devo prendere la macchina. Non ci sono i mezzi a quell'ora, o meglio, sono tutti un po' sardinati. È vero, gli automobilisti sono molto, siamo incivili, devo dire. Non mi riferisco alle persone che prendono l'auto, perché anch'io prendo l'auto. Mi riferisco ai comportamenti scorretti degli automobilisti. Sì, per esempio buttarsi in mezzo all'incrocio e bloccare tutto, esatto, così. Oh, bloccano gli incroci perché passano col giallo sapendo che si fermano a metà. Certo, ma vuol mettere guadagnare un metro e mezzo rispetto a quello che sta dietro. Bloccare gli incroci manda in crisi una città. Vabbè, quindi colpa delle scorrettezze degli automobilisti. Grazie Paolo, sono d'accordo con lei. Andrea da Vicenza, buongiorno. Buongiorno a lei. Che dica? Io ho sentito l'intervento del ministro Matteoli, io posso comprendere che in Belgio siano messi peggio di noi, però allora a questo punto l'informazione dello Stato, comunque delle compagnie, non la vostra, omette di dire che se ci sono questi problemi non sono derivati da problemi italiani, sono derivati anche dai problemi di altri paesi per quanto riguarda ieri, e questo ci può stare, ma non ci può stare quello che sono le ferrovie. Perché? Con le tecnologie ci sono adesso, oggi le tecnologie che ci sono vanno in tilt con il freddo. Però lei dice, lei ha visto quello che è successo sotto la Manica, tre giorni, esatto. Quasi un caso diplomatico tra Francia e Gran Bretagna, perché tre giorni bloccati. Certo, cosa succede? Qualsiasi persona sa che dal freddo al caldo la tecnologia può andare in appunto, tilt. Appunto, quindi voglio dire. Allora, questa tecnologia, noi siamo vittime di questa tecnologia. Perché 10 anni fa nevicava molto di più, perché a Vicenza ha fatto 30 certo. centimetri di neve. Vabbè, insomma, vittima della tecnologia. Andrea, grazie per il suo intervento. Io, l'ho brutalmente un po' fermata, perché devo approfittare di questi pochi minuti che il vice sindaco di Milano, Riccardo Decorato, buongiorno vice sindaco, buongiorno. Ci può concedere, strappandolo all'emergenza. Sì, qualche minuto sì. Sì, il vice sindaco sì. di Milano, il vice sindaco arrabbiato di Milano, sì. perché ha detto sì. io ve l'avevo detto e voi avete preso la macchina. E no, voi... sono arrabbiato a nome dei tanti milanesi di Milano che sono rimasti nel traffico, di coloro che vengono tutte le mattine a Milano, ma questo è normale, ma nei giorni di neve avevamo detto ai 700.000 auto che entrano tutti i giorni dentro la città di lasciare le auto almeno ai parcheggi di corrispondenza della nostra azienda trasporti, ai parcheggi di corrispondenza. Che sono stati lasciati vuoti. E oggi? Oggi come va secondo lei? Oggi almeno... forse hanno capito la lezione, forse, perché vedo molte meno auto in giro. Io sono qui nella unità di crisi presso la centrale operativa dei vigili di Milano, ho i monitor le mille telecamere che abbiamo in giro per Milano e vedo molte meno auto in giro. Mm. Però abbiamo dovuto pagare un prezzo molto duro e alto ieri, con gli incolonamenti in tutte le arterie in uscita da Milano, da Palmanova a Scarampo, Fiera, a Chiesa Rossa, tutte arterie che erano intasate dai automobilisti che provengono dall'Interland o dalle province intorno a Milano. Però, e questo è stato pagato, questo duro prezzo, dai milanesi. Le chiedo, vice sindaco, lei forse avrà sentito l'amministratore delegato di Ferrovie Moretti che ha detto però per le lunghe percorrenze portatevi anche dei panini e dei maglioni. Poco fa avevamo il ministro Matteoli che ha detto effettivamente la frase è un po' infelice. Io le chiedo, certo lei ha fatto l'appello lasciate la macchina, però ribaltando non si può dire, ma insomma con 15 centimetri di neve una città moderna deve reagire in maniera straefficiente e garantire tutto. A Parigi con gli stessi centimetri la città è paralizzata, gli aeroporti sono chiusi, a Londra credo che sia la stessa scena, non voglio paragonare Milano a Parigi e Londra, ma faccia lei il paragone con le altre città europee, non mi paragono a Torino o a Venezia, parlo di due grandi capitali europee che in queste ore sono bloccate più o meno dalla stessa nevicata, tenendo conto che dalle 15 di ieri alle 5 di stamattina ha nevicato ininterrottamente sulla nostra città. Questo siamo è vero. Con Parigi e Londra più o meno, non dico meglio, ma nella stessa situazione. Allora, vice sindaco, io nel ringraziarla la lascio insomma al suo lavoro, sono con Paolo Martinello sempre. Martinello, anche quello che è successo a Milano, comunque nelle grandi città, quello che è successo con la macchina degli automobilisti, questa è una questione diversa, cioè perché non è lì pago il biglietto delle ferrovie, vado, magari ho un disagio. Cosa succede con la macchina quando c'è un appello di un comune a dire lasciatela, uno la prende, si ritrova 2 ore, 3 ore imbottigliato e poi con chi me la prendo? Cioè ho legittimità a prendermela con qualcuno? Ma non credo proprio. Io voglio dire che comunque questa mattina a Milano io l'ho attraversata fra le 7:30 e le 8:30 e devo dire che è una città che c'è poco traffico, ma è anche una città dove i mezzi stanno funzionando, le strade sono state spalate e questa dimostrazione che questa non è una catastrofe naturale. Forse la neve sono pure più di 15 centimetri, ma non mi pare che la situazione di Milano di oggi sia una situazione catastrofica. Questo per dire, piuttosto c'è il problema dei marciapiedi dove invece ci sono fortissimi disagi, sì, certo. Ma qui direi ecco il pubblico batte il privato 1-0 perché i mezzi stanno funzionando, le strade sono in grandissima parte passato lo spazzaneve, le macchine, quelle poche che ci sono, circolano, i mezzi circolano, qualche semaforo in tilt, i marciapiedi sono impercorribili. C'è chi ci scrive, visto che le autostrade, molti ci scrivono per esempio bloccati tra Modena e Reggio Emilia, visto che le autostrade non non possono garantire in questo caso il servizio, almeno non facciano pagare il pedaggio. È una cosa ma vera? Ma questo delle autostrade è una vecchia questione su cui, no, certo che è vera, perché in effetti, cioè, è fattibile? Il problema è che quando uno è dentro, per poter uscire deve pagare il pedaggio. Il problema della mancata intervento sulle autostrade è un problema su cui oggi non sono in grado, non ho dati per commentare. In passato abbiamo visto come le autostrade sono state gestite male in situazioni, diciamo, di emergenza meteorologica. In questo caso io su questo non dico nulla perché non ho dati in questo momento sulla condizione delle autostrade. Fino a ieri sembrava abbastanza buona, oggi non lo so, quindi vedremo cosa succede, però non c'è dubbio che in queste condizioni, soprattutto, attenzione, la mancata informazione sì, all'ingresso delle autostrade sulle condizioni di percorribilità è un grave inadempimento che anche dal punto di vista legale può determinare delle responsabilità della società. Allora, vediamo se concludiamo con Marco da Milano. Milano, la Milano paralizzata. Marco, no, è caduta la linea, sarà rimasto, avrà buttato giù anche lui nella neve. Allora, c'è da dire che molti ci dicono: sì, abbiamo seguito il consiglio di decorato e poi siamo rimasti in stazione centrale bloccati, fermi coi treni, nelle metropolitane insardinate. Il comune dice sono state aumentate, però in realtà ci sono state scene un po' da tregenda di chi ha preso i mezzi, insomma, un po' di filosofia spiccia, mettiamoci l'animo in pace, c'è stata una nevicata e dobbiamo fare questa cosa qui, affrontare questo piccolo disagio. Non so se Daniele dalla provincia di Pavia come ultimo ascoltatore ce l'abbiamo. Daniele? Sì, sono qua, buongiorno. Che dice? Buongiorno, volevo dissentire con quanto ha detto il ministro Mattioli, perché 10 centimetri di neve non possono essere considerati una nevicata straordinaria. Vabbè, ma tutta Europa è un po' così, e comunque va bene. E poi? La neve. Poi, volevo essere d'accordo, sono d'accordo con quanto ha detto Moretti, se io mi devo mettere in viaggio e so che le condizioni meteo sono avverse, mi devo preparare. Vabbè, ho capito, modo. Ma mica va a piedi, va su un treno. Cioè, ho capito, può succedere, quindi si porta i panini, il maglione, perché così, lei Daniele se lo porta. So. Sì, è sempre aspettare che sia qualcun altro a tirarmi fuori dalle grane. Ecco, vabbè, insomma, su questo... Vabbè, grazie Daniele, devo dire che è un po' una mosca bianca a favore con questa frase di Moretti. Portatevi il maglione perché può succedere, state fermi, salta l'elettricità, niente riscaldamento. È capitato. Allora, ci fermiamo, grazie Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia. Votate il sondaggio, 72% per ora dice colpa dell'inefficienza del paese, non della neve, che è freddo e nevica. Ci fermiamo. Oscar Giannino, a te la linea. Noi ci sentiamo domattina.